24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Berlino e Parigi d'accordo, obbligatoria l'integrità dell'euro. Il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Merkel sostengono la Banca Centrale Europea e si dicono pronti a tutto a favore della moneta unica. Le borse apprezzano, Madrid guadagna il 3,91%, Milano il 2,93%. Il governo spagnolo smentisce la richiesta di salvataggio da 300 miliardi di euro, ma il Fondo Monetario Internazionale avverte, senza sostegno della BCE, Madrid a rischio. La Germania non gradisce le parole del numero uno della Fiat sugli sconti alla Volkswagen. Cinque paesi dell'Unione si alleano per combattere gli evasori fiscali. A Londra la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. La politica si intreccia alla crisi economica europea. Da una parte, infatti, il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno fatto sapere di essere anche loro pronti a tutto per preservare l'euro. Un sostegno politico che rafforza l'impulso della BCE e influenza positivamente i mercati in una giornata fino a quel momento molto altalenante. Dall'altra, il capo dello Stato italiano Giorgio Napolitano e il numero uno della BCE Mario Draghi si sono incontrati a Londra per fare il punto sulla crisi. L'asse tra Parigi e Berlino smentisce la Bundes. Infatti la banca centrale aveva ribadito la propria contrarietà all'acquisto di titoli di Stato di paesi in difficoltà da parte della Banca Centrale Europea. È invece giallo su una presunta domanda ufficiale di aiuti da parte della Spagna. Un piano completo di salvataggio non è un'opzione, con queste parole che Madrid ha smentito le indiscrezioni sulla richiesta di un piano di salvataggio da 300 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale e all'Unione Europea, visto l'elevato livello dei rendimenti spagnoli. Ma secondo il Fondo Monetario Internazionale, senza nuove misure di sostegno da parte della BCE, la Spagna rischia. Sentiamo la cronaca da Simone Spezia. Il sostegno a Mario Draghi è apparentemente incondizionato. Prima il ministro tedesco Schäuble, poi la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese François Hollande si dichiarano d'accordo sul fatto che la BCE debba intervenire con tutti gli strumenti possibili nell'ambito del proprio mandato. Le ipotesi sul piatto restano varie, ma quella ritenuta più probabile è la ripresa del programma di acquisti di obbligazioni di Stato, forse solo quelle spagnole, per tenere giù i rendimenti dei titoli in attesa del 12 settembre, quando la Corte Costituzionale tedesca si pronuncerà sullo scudo antispread, ipotesi che non convince la Banca Centrale tedesca. La nostra posizione è nota, dice la Bundesbank. Giovedì la BCE riunirà il direttivo e serve che agisca, sostiene il Fondo Monetario, altrimenti la Spagna è a rischio, mentre tornano a circolare voci di una richiesta di salvataggio da parte di Madrid, nuovamente smentite. I mercati intanto approfittano di questa apparente concordia di intenti per chiudere un'altra giornata positiva, confortati anche da un dato sul PIL americano superiore alle attese. Milano chiude con un rialzo vicino al 3% sul FTSE MIB, il rendimento dei BTP a 10 anni scende sotto il 6%, lo spread a 455 e anche l'asta di bot semestrali va bene, tassi in calo di mezzo punto al 2,45%. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come dicevamo, borse europee in netto guadagno dopo le parole di Hollande e della Merkel. Madrid guadagna il 3,91%, Milano il 2,93%, Parigi il 2,28%, Francoforte l'1,62% e Londra l'1%. L'area euro fa quadrato per la propria difesa e salva l'ultima seduta della settimana sui mercati. In una giornata di fibrillazione per gli indici, tra voci di piani della BCE e dei governi europei per sostenere i paesi in difficoltà. Così in mattinata gli indici hanno oscillato molto tra acquisti e vendite per poi prendere la via del rialzo dopo le dichiarazioni di Francia e Germania, che hanno rassicurato sul loro impegno per la difesa dell'euro. La moneta unica ha recuperato così il livello di 1,23 sul dollaro e ha superato i 97 yen. A Milano il FTSE MIB ha chiuso il rialzo del 2,93% e il FTSE All Share del 2,16%. In luce i titoli del comparto bancario che hanno beneficiato del restringimento dello spread, con Unicredit a più 4,6%, Mediobanca a più 4,9%, Intesa San Paolo a più 2,1%. Rialzo di quasi 5 punti per Pirelli all'indomani dei conti apprezzati da analisti e investitori, progresso di quasi 3 punti per Telecom Italia, mentre sembra sciogliersi il nodo di Team Brasil. Il rialzo Finmeccanica del 5% e Fiat del 4%, nonostante le polemiche tra il numero 1 Marchionne e la Volkswagen, che ne ha chiesto le dimissioni da presidente dei costruttori europei. Chiara Di Cristoforo da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non sono piaciute ai tedeschi le parole di ieri dell'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, sulla politica di sconti alla Volkswagen. Nuovo episodio nella lite tra Sergio Marchionne e la Volkswagen. Dopo l'intervista di ieri del manager Fiat, che ha accusato i tedeschi di abbassare i prezzi e provocare così un bagno di sangue per i bilanci della concorrenza, la casa tedesca ha chiesto le dimissioni di Marchionne dalla guida dell'ACEA, l'Associazione Europea dei Costruttori di Auto. Se non lo farà, ha detto il portavoce, potremmo andarcene noi. La guerra di punzecchiature e battute tra Marchionne e la Volkswagen risale al lungo corteggiamento tedesco all'Alfa Romeo, ma la vera battaglia è quella a livello europeo che contrappone i costruttori di auto in buona salute, per lo più tedeschi, con quelli in difficoltà che comprendono la Fiat e i francesi. Una spaccatura tra nord e sud Europa che ricalca quella sull'euro e che, come nel caso della valuta, può avere conseguenze gravi. I dossier aperti a Bruxelles sul settore auto sono numerosi e importanti, da quello delle norme sulle emissioni a quello sugli accordi commerciali con Corea e Giappone. In caso di paralisi decisionale, a rimetterci saranno i più deboli. Sul tavolo per ora non c'è la guerra dei prezzi. Bruxelles ha fatto sapere che non risultano violazioni di concorrenza da parte della Volkswagen. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 5 grandi paesi dell'Unione Europea hanno stretto un'alleanza contro gli evasori fiscali. Gli Stati Uniti d'Europa ancora non ci sono, ma almeno per quanto riguarda una comune lotta contro l'evasione fiscale, ieri è stato fatto un passo avanti. Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito hanno stretto un'alleanza per mettere all'angolo gli evasori fiscali, seguendo l'approccio già messo in campo dagli Stati Uniti, definendo il modello per la comunicazione automatica di dati relativi ai conti di natura finanziaria alle rispettive autorità fiscali. In pratica saranno più veloci e più agevoli lo scambio e la triangolazione di dati a chiappa evasione. Si pongono così le basi per il programma di cooperazione fiscale europea Fiscus, che va verso la creazione di un codice fiscale europeo fino alla costituzione di una guardia di finanza comunitaria. Verranno inoltre avviati negoziati per accordi comunitari con i paradisi fiscali Svizzera, San Marino, Liechtenstein e Andorra, per giungere al controllo delle banche sospettate di accettare somme nascoste al fisco. D'altra parte, l'evasione fiscale è un problema serio per tutti ed è anche difficile calcolare a quanto ammonti il totale evaso in uno Stato. Per questo è fondamentale che si arrivi a un sistema unico ed affidabile di calcolo che sfrutti al massimo i dati finora raccolti. In Italia si stima che ogni anno si evadano tra i 72 e i 120 miliardi di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo ora al voto di domenica in Romania. Sono oltre 18 milioni i cittadini romeni chiamati alle urne domenica. Con il loro voto al referendum voluto dal governo di centro-sinistra potranno decidere se Băsescu potrà continuare a fare il presidente o dovrà rassegnarsi alla destituzione. Gli ultimi sondaggi danno il sì alla destituzione in netto vantaggio, ma non vi è alcuna certezza che si riesca a raggiungere il quorum. Per cercare di ottenere comunque il risultato, la maggioranza di centro-sinistra ha votato un prolungamento dell'orario di voto di 4 ore e l'apertura di stazioni anche negli hotel e nei ristoranti del litorale del Mar Nero, dove molti cittadini sono in vacanza. Il Partito Democratico Liberale, vicino al presidente, sta invece invitando a boicottare la consultazione. Una crisi politica che cade in un momento economico difficile. Nell'ultimo rapporto della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, sulla Romania è stato acceso un faro particolare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato il registro delle unioni civili. L'Italia però resta fanalino di coda rispetto ad altri paesi europei, come sottolinea l'avvocato Gianetto Regassani, presidente dell'Associazione Matrimonialisti. La Francia con i Pax, la Spagna dove addirittura le coppie sono riconosciute, le coppie gay anche sono riconosciute, ma così anche l'Olanda, il Belgio, cioè l'Italia è un paese che cammina da solo in Europa, è l'unico paese che non riconosce le coppie di fatto, né eterosessuali né omosessuali. L'Europa ci ha richiamati all'ordine più volte, abbiamo fatto un congresso a Milano il 10 maggio con gli avvocati di tutta Europa. E beh, noi italiani ci siamo vergognati perché ci siamo resi conto che anche la cattolicissima Spagna, un paese ancora più mediterraneo del nostro, è riuscita a fare il salto di qualità, dove addirittura gli omosessuali possono sposarsi e addirittura adottare, magari si può essere d'accordo o meno, ma negli altri paesi molto si è fatto, in Italia ancora niente. Ora lo sport, ieri sono iniziati i Giochi Olimpici di Londra. Vezzali e Pellegrini, nessuna discussione, le grandi protagoniste azzurre dopo lo sparo delle Olimpiadi sono loro. Le aspettiamo, ma intanto guardiamo, per esempio, al ciclismo che oggi nel primo giorno celebra o brucia la sua medaglia più bella, quella della prova su strada. In una Londra che pare muoversi solo in bicicletta saranno in 1 milione sulle strade della prova olimpica. E chissà cosa dovranno fare per guadagnare anche un'ultima fila davanti a Buckingham Palace, dove c'è lo striscione del traguardo. Sarà però molto più difficile per chi corre trovare il modo per disinnescare Mark Cavendish, il ragazzo dell'isola di Man, diventato campione del mondo e re di tutti gli sprinter. Del resto è l'anno del ciclismo inglese, come il tour ha dimostrato, e vista così sembra la medaglia più scritta di questi giochi insieme a quella del basket americano. Ma qui non si tratta di infilare la palla in un canestro, tante storie anche emotive possono entrare in gioco. Ecco perché la rabbia di Nibali, terzo al Tour de France, la velocità e la furbizia di Paolini, il talento fresco di Sascha Modolo possono entrare nel grande gioco. Lo capiremo subito. Oggi, Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Infine l'automobilismo, iniziato a Budapest il fine settimana di Formula 1 che culminerà domani con il Gran Premio di Ungheria, undicesima prova del Mondiale. Le prove libere sono state dominate dalla McLaren Mercedes. Sul circuito dell'Ungaroring un po' di pioggia ieri pomeriggio ha impedito un test completo delle gomme. La Formula 1 farà poi pausa per un mese, si tornerà a correre il 2 settembre in Belgio. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un saluto da Daniele Teruzzi in regia e da Paolo Panceni in studio. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.